Il vicario possedeva una sua fortuna personale. Non era sposato e conduceva l'esistenza di uno scapolo pigro ed elegante, ma sebbene non fosse un visitatore zelante dei parrocchiani più poveri, era sempre disponibile ad aiutarli nei loro bisogni con grande generosità e, considerate le sue abitudini, occasionalmente con somma abnegazione, ogni volta che Mr. Gibson o qualcun altro gli rendeva note le circostanze. Usate la mia borsa in tutta libertà, come fosse la vostra, Mr. Gibson, era solito dire. Io sono proprio pessimo ad andare a chiacchierare con la povera gente. Direi che non faccio abbastanza a questo proposito, ma desidero davvero darvi qualunque cosa per chiunque voi possiate considerare in difficoltà. Grazie. Vengo da voi abbastanza spesso, mi pare, e mi faccio parecchi scrupoli, ma se me lo consentite vi darei un suggerimento. Non dovreste chiacchierare quando andate nei cottage, solo parlare. Non vedo la differenza, replicò il vicario un poco lamentoso, ma direi che c'è e non ho dubbi che quanto dite sia vero. Non dovrei chiacchierare, ma parlare, e poiché queste sono cose ugualmente difficili per me, dovete permettere che io acquisti il privilegio del silenzio con questa banconota da 10 sterline. Grazie, non mi dà la stessa soddisfazione e penso neanche a voi. Ma probabilmente i Jones e i Green preferiranno così. Mr. Ashton guardava con tristezza e confusione il viso di Mr. Gibson dopo un simile discorso, come se cercasse di capire se c'era del sarcasmo. Tutto sommato, i due si relazionavano nel modo più amichevole, solo che al di là del sentimento gregario che è comune a molti uomini, trovavano ben poco piacere nella reciproca compagnia. Forse colui che sopra ogni altro era simpatico a Mr. Gibson, perlomeno prima che Lord Hollingford tornasse nel circondario, era un certo Squire Hamley. Egli e i suoi antenati erano stati chiamati Squire sin da quando esisteva la tradizione locale. Nella contea, però, c'erano numerosi proprietari di terreni più estesi, poiché i possedimenti di Squire Hamley non arrivavano a più di 800 acri o giù di lì. Ma la sua famiglia possedeva quei terreni molto prima che si sentisse parlare dei conti di Kemnor e prima che gli Haley Harrison acquistassero Cold Stone Park. Nessuno a Hollingford sapeva di un tempo in cui gli Hamley non fossero vissuti a Hamley. Sin dall'eptarchia, disse il vicario. No, ribatté Miss Browning, ho sentito che c'erano gli Hamley di Hamley anche prima dei Romani. Il vicario stava preparando un'educata approvazione quando Mrs. Goodenough interloquì con un'asserzione ancora più stupefacente. Ho sempre saputo, disse con la lenta autorità di un'abitante anziana, che gli Hamley di Hamley esistevano prima del tempo dei pagani. Mr. Ashton poté solo inchinarsi e affermare: È possibile, molto possibile, signora mia. Ma lo disse in modo così cortese che Mrs. Goodenough si guardò intorno tutta gratificata, come per sottolineare: La Chiesa conferma le mie parole. Adesso chi osa contraddirmi? In ogni caso, gli Hamley erano una famiglia molto antica, se non aborigena. Per secoli non avevano ingrandito i loro possedimenti, avevano mantenuti propri anche se con un certo sforzo, e non avevano venduto neppure un palmo nell'ultimo centinaio d'anni. Non erano però una stirpe avventurosa. Non commerciavano, non speculavano, non tentavano migliorie agricole di alcun genere. Non possedevano capitali in banca né, il che sarebbe stato forse più consono al loro carattere, gruzzoli d'oro dentro una calza. Il loro modo di vivere era semplice, più simile a quello dei piccoli proprietari che dei gran signori. Infatti, Squire Hamley, perpetrando i costumi primitivi dei suoi avi, nobiluomini del XVIII secolo, viveva più come un contadino che come un gentiluomo della sua generazione. C'era una dignità in questo quieto conservatorismo che gli procurava un rispetto immenso, sia dall'alta che dalla bassa società, e se avesse voluto, gli avrebbe potuto far visita a qualsiasi casa della contea. Ma egli era indifferente al fascino della compagnia, e forse questo era dovuto al fatto che lui, Roger Hamley, che viveva e regnava su Hamley in quel periodo, non aveva ricevuto l'istruzione che avrebbe dovuto. Suo padre, Squire Stephen, era stato bocciato a Oxford e in virtù del suo testardo orgoglio si era rifiutato di tornarci. Anzi, peggio, aveva giurato e spergiurato, come facevano gli uomini a quei tempi, che nessuno dei suoi figli sarebbe mai entrato in una delle due università. Aveva un solo figlio, il proprietario attuale, che era cresciuto in obbedienza al voto fatto al padre. Fu mandato a una piccola e insignificante scuola di provincia, dove vide molte cose che odiò, e poi fu lasciato libero di tornare alla sua tenuta in qualità di erede. Tale educazione non gli procurò il danno che ci si sarebbe potuti aspettare. Era stato istruito in modo lacunoso ed era ignorante sotto molti punti di vista, ma era consapevole delle sue mancanze e in teoria se ne rammaricava. In società era goffo e sgradevole, così se ne teneva più lontano che poteva. Era ostinato, dal temperamento irruento e tirannico nei confronti della sua cerchia più prossima. D'altra parte era generoso e fedele come l'acciaio. L'anima stessa dell'onore, a dir la verità. Vantava un'intelligenza del tutto naturale, cosicché valeva sempre la pena ascoltare la sua conversazione, anche se era solito iniziare affermando premesse del tutto sbagliate, che considerava incontrovertibili come assiomi matematici. Ma assunta la correttezza di tali premesse, nessuno avrebbe potuto portare più spirito e più logica alle argomentazioni che ne derivavano. Aveva sposato una raffinata e delicata signora di Londra. Si trattava di uno di quei matrimoni imbarazzanti, di cui è impossibile comprendere le ragioni. Eppure erano molto felici, anche se forse Mrs. Hamley non sarebbe precipitata nello stato di un'invalida cronica se suo marito si fosse preoccupato un po' di più dei suoi molteplici gusti o le avesse concesso la compagnia di coloro che erano disposti a occuparsene. Dopo il matrimonio, egli era solito affermare di possedere tutto ciò che avesse un valore al di fuori di quella massa di case che chiamano Londra. Era un complimento alla moglie, che gli ripeté fino all'anno della morte di lei. All'inizio ella ne era lusingata, le fece piacere fino all'ultima volta in cui lo sentì. Ciò non di meno, occasionalmente, desiderava che lui riconoscesse che poteva esserci qualcosa che valesse la pena di vedere e di sentire nella grande città. Egli però non ci tornò più e per quanto non le proibisse di andarci, mostrava talmente poca comprensione nei suoi confronti quando lei tornava carica di impressioni su ciò che aveva fatto nel corso della sua visita, che la donna smise di volerci andare. Lui non era scortese, non rifiutava il suo consenso e la riforniva ampiamente di denaro. Ecco, donina mia, prendi, vesti bene come chiunque di loro, comprati quello che vuoi per l'onore degli Hamley di Hamley. Vai al parco, suona, mostrati in compagnia dei migliori. Sarò felice quando ti rivedrò, lo so, ma finché ci sei, goditela. Poi quando lei tornava diceva: Bene, bene, ti è piaciuto, suppongo, quindi meglio così. Ma solo il sentirne parlare mi stanca, lo so, e non posso pensare a come tu abbia potuto sopportarlo. Esci, guarda come sono belli i fiori del giardino a sud. Ho fatto piantare tutti i semi che piacciono a te e sono andato al vivaio di Hollingford a comprare le talee delle piante che hai ammirato l'anno scorso. Una boccata d'aria fresca mi schiarirà le idee dopo aver ascoltato tutto questo parlare del baccano di Londra che mi ha fatto girare la testa. Mrs. Hamley era una gran lettrice, aveva uno spiccato senso letterario, era gentile, sentimentale, dolce e buona. Smise di andare a Londra. Rinunciò al piacere della compagnia di coloro che erano suoi pari per istruzione e per posizione sociale. Suo marito, a causa delle lacune dei suoi anni di gioventù, non amava accompagnarsi a coloro che sarebbero dovuti essere i suoi simili ed era troppo orgoglioso per mescolarsi a gente inferiore a lui. Amava sua moglie ancor di più per i sacrifici che faceva per lui, ma privata di tutti i suoi interessi più forti, ella si ammalò. Niente di definito, solo che non stette mai più bene. Forse se avesse avuto una femmina sarebbe stato meglio per lei, ma i suoi figli erano due maschi e il padre, ansioso di garantire loro i vantaggi dei quali egli aveva sofferto la mancanza, li mandò molto presto a una scuola di preparazione al college. Erano destinati a Rugby e a Cambridge. Oxford era un'idea sgradevole per eredità nella famiglia Hamley. Osborne, il maggiore, chiamato con il cognome della ragazza della madre, era pieno di gusto e aveva qualche talento. Il suo aspetto vantava tutta la grazia e la raffinatezza della mamma. Era di natura dolce, affettuosa ed espansivo come una ragazza. A scuola fece bene, vinse molti premi ed era in breve l'orgoglio e il diletto di entrambi i genitori. La madre trovava in lui anche un confidente e un amico in mancanza di altri. Roger era più giovane di 2 anni, era privo di eleganza e dalla costituzione solida come il padre. Aveva il viso squadrato e l'espressione grave, piuttosto immobile. Era bravo ma lento, dicevano i suoi insegnanti. Non vinse alcun premio, ma portò a casa un resoconto positivo in merito alla sua condotta. Quando accarezzava la madre, Ella alludeva ridendo alla favola dell'asino e il cagnolino, perciò in seguito egli lasciò perdere qualsiasi dimostrazione di affetto. Si parlò molto dell'opportunità che seguisse il fratello al college dopo aver lasciato Rugby. Mrs. Hamley pensava che sarebbe stato uno spreco di denaro, perché era molto probabile che lui si distinguesse nelle discipline intellettuali. Una qualsiasi occupazione pratica, come l'ingegnere civile, sarebbe stata una vita più adatta a lui. Ella pensava che sarebbe stato troppo mortificante per lui frequentare lo stesso college e poi l'università del fratello, il quale avrebbe sicuramente conseguito risultati eccellenti, e dopo essere stato ripetutamente bocciato, uscirne con i voti peggiori. Il padre invece insistette tenacemente, come al solito, nell'intenzione di offrire a entrambi i figli lo stesso tipo di istruzione. Entrambi dovevano avere i vantaggi che a lui erano stati negati. Se Roger non fosse andato bene a Cambridge, sarebbe stata solo colpa sua. Se suo padre, al contrario, non ce l'avesse mandato, un giorno o l'altro se ne sarebbe pentito, come lo squire aveva fatto per molti anni. Dunque, Roger seguì Osborne al Trinity e Mrs. Hamley fu lasciata di nuovo sola, dopo l'anno di indecisioni relative alla destinazione di Roger, che era stata raggiunta per via della sua urgenza. Per molti anni non era stata in grado di camminare oltre il giardino. La maggior parte della sua vita trascorreva su un divano, che d'estate veniva spostato presso la finestra e d'inverno vicino al fuoco. La stanza che ella occupava era grande e piacevole. Quattro alte finestre si affacciavano su un prato punteggiato di aiuole che si spingeva fino a un boschetto, nel centro del quale c'era uno stagno pieno di ninfee. A proposito di questo laghetto nascosto nell'ombra profonda, Mrs. Hamley aveva scritto molte graziose quartine. E seduta sul sofà alternava la lettura alla composizione poetica. Accanto a lei teneva un tavolino dove si trovavano le più recenti opere di poesia e di narrativa, una matita e un blocchetto, fogli volanti di carta bianca, un vaso di fiori raccolti sempre dal marito. D'estate ed inverno ogni giorno riceveva un mazzolino fresco. Ogni 3 ore la cameriera le portava la medicina con un bicchiere d'acqua limpida e un biscotto. Il marito le faceva visita ogni volta che il suo amore per l'aria aperta e per il lavoro all'esterno glielo permettevano. Ma l'evento del giorno, quando i ragazzi erano assenti, erano le frequenti visite del dottor Gibson. Egli sapeva che era in corso un vero e segreto dolore, in tutto quel tempo in cui la gente parlava di lei come di una semplice malata immaginaria, e che qualcuno lo accusava di prendere in giro le fantasie della donna. Ma lui si limitava a sorridere di queste critiche. Sentiva che le sue visite erano veramente un piacere e un sollievo per quel disagio crescente e indescrivibile. Sapeva che Squire Hamley sarebbe stato anche troppo contento se lui fosse tornato ogni giorno ed era consapevole che osservando con attenzione i sintomi, egli avrebbe mitigato il dolore fisico. Oltre a tutte queste ragioni, egli era molto lieto della compagnia del nobiluomo. Mr. Gibson godeva della sua irragionevolezza, della sua bizzarria, del suo forte conservatorismo religioso, politico e morale. Mrs. Hamley tentava talvolta di scusarsi e di addolcire le opinioni che immaginava offensive per il medico o le contraddizioni che riteneva troppo plateali, ma in quei momenti il marito posava, come in una carezza, la sua grande mano sulla spalla di Gibson e consolava le ansie della moglie dicendo: «Lasciaci soli, donnina, noi ci capiamo, non è vero, dottore?» «Beh, Benedetto mi dà spesso molto più di quanto riceva. Solo, vedi, inzucchera la questione. Dice una cosa amara e fa finta che sia cortese e umile, ma io me ne accorgo quando mi sta rifilando una pillola». Uno dei desideri che Mrs. Hamley esprimeva più di frequente era che Molly potesse andare a farle visita. Mr. Gibson declinava sempre l'invito, per quanto non sapesse bene spiegare la ragione di questo rifiuto. Non voleva privarsi della compagnia della figlia, in verità, ma la metteva in modo completamente differente. Pensava che le lezioni e le sue normali faccende sarebbero state interrotte. La vita nella stanza riscaldata e piena di profumi di Mrs. Hamley non sarebbe stata adatta alla ragazza. Osborne e Roger sarebbero stati in casa ed egli non voleva che Molly trovasse una compagnia giovane esclusivamente loro. Oppure i due non sarebbero stati a casa e allora per la figlia sarebbe stato piuttosto noioso e deprimente trascorrere tutto il giorno insieme a una malata di nervi. Ma infine venne il giorno in cui Mr. Gibson passò di là e offrì volontariamente una visita di Molly. Mrs. Hamley ricevette la notizia con le braccia aperte del cuore, come ella stessa disse, e la durata della visita non fu specificata. La causa di questo cambiamento nelle volontà di Mr. Gibson era la seguente. Si è già detto che egli aveva preso in casa degli allievi, contrariamente alla sua inclinazione, a dire il vero, ma eccoli là, un certo Mr. Wynne e un tale Mr. Cox. I giovani gentiluomini li chiamavano in famiglia. I giovani gentiluomini di Mr. Gibson erano definiti in città. Mr. Wynne era il più anziano e il più abile e occasionalmente sostituiva il maestro, guadagnando così esperienza visitando i poveri e i casi cronici. Mr. Gibson era solito discutere i casi con lui e tentava di stimolare le sue opinioni nella vana speranza che un giorno o l'altro Mr. Wynne potesse dar voce a un pensiero originale. Il giovane era prudente e lento, non avrebbe mai arrecato alcun danno a causa della fretta, ma allo stesso tempo sarebbe sempre arrivato un po' in ritardo. Mr. Gibson ricordava di aver avuto a che fare con giovani gentiluomini molto peggiori ed era contento, se non proprio grato, di avere un allievo anziano come Mr. Wynne. Mr. Cox era un ragazzo di circa 19 anni, con i capelli di un rosso brillante e un viso tollerabilmente arrossato. Di entrambe le cose era molto consapevole e se ne vergognava assai. Era il figlio di un ufficiale in India, una vecchia conoscenza di Mr. Gibson. Il maggiore Cox stazionava al momento in un luogo impronunciabile del Punjab, ma l'anno precedente era stato in Inghilterra e aveva ripetutamente espresso la propria grande soddisfazione per aver piazzato il suo unico figlio come allievo del vecchio amico e aveva di fatto incaricato Mr. Gibson di sorvegliare il ragazzo, oltre che di istruirlo, impartendogli molte ingiunzioni che egli riteneva speciali in questo caso. Ordini che però, come Mr. Gibson leggermente seccato, garantì al maggiore, venivano rispettati in ogni caso con ogni allievo. Ma quando il povero maggiore si arrischiò a supplicare che il figlio potesse essere considerato come uno di famiglia e trascorrere così le serate in salotto invece che in ambulatorio, Mr. Gibson espresse un inequivocabile rifiuto. Deve vivere come gli altri. Non posso far portare in salotto il mortaio e il pestello e farlo odorare di aloe. Dunque il mio ragazzo deve preparare le pillole personalmente? Chiese il maggiore lamentoso. Certo che sì. È compito dell'apprendista più giovane. Non è difficile. Sarà suo conforto pensare che non sarà lui a doverle ingoiare. Avrà la sua porzione di pasticcio di pesce, le conserve di rosa canina e la domenica un assaggio di tamarindo per ricompensarlo del suo lavoro settimanale nella preparazione delle pillole. Il maggiore Cox non era del tutto sicuro che Mr. Gibson non lo stesse prendendo in giro, ma le cose erano ormai disposte e i vantaggi effettivi erano così importanti che gli pensò fosse meglio evitare ulteriori appunti e sottomettersi persino all'ingenua prospettiva del far pastiglie. Alla fine, quando giunse il momento supremo del saluto finale, il maggiore si pacificò con tutte le difficoltà grazie a Mr. Gibson. Il dottore non disse molto, ma nei suoi modi c'era un accenno di sincera simpatia che toccò le corde del cuore di quel padre e che significava in ciascuna delle ultime parole: mi avete affidato il vostro ragazzo e mi faccio carico in pieno della vostra fiducia. Mr. Gibson conosceva troppo bene il suo lavoro e la natura umana per dedicare al giovane Cox un qualunque evidente segno di favoritismo, ma non poteva evitare di dimostrare al ragazzo di tanto in tanto di considerarlo con un interesse particolare, perché era il figlio di un suo amico. Al di là di questo, c'era qualcosa nella personalità del giovane che piaceva a Mr. Gibson. Il ragazzo era diretto, impulsivo, facile all'eloquio, con inconsapevole genialità, qualche volta colpiva nel segno e qualche volta commetteva errori grossolani incredibili. Mr. Gibson era solito dirgli che il suo motto sarebbe stato sempre cura o uccidi, al che Mr. Cox una volta rispose che pensava questo fosse il miglior motto che un medico potesse avere. Infatti, se non gli riusciva di curare un paziente, era sicuramente meglio privarlo del suo dolore in silenzio e con effetto immediato. Mr. Wynne sbarrò gli occhi per la sorpresa e osservò che temeva che questa privazione del dolore sarebbe stata considerata da qualcuno un omicidio. Mr. Gibson replicò asciutto che da parte sua non si sarebbe curato dell'imputazione di omicidio, ma che non si sarebbe liberato così in fretta di pazienti che portavano un guadagno. Pensava che finché costoro erano disposti e si trovavano nelle condizioni di pagare due sterline e 6 pence per la visita del medico, era suo dovere tenerli in vita. Certo, se diventavano poveri il caso era diverso. Mr. Wynne rifletté su questo discorso. Mr. Cox si limitò a riderne. Alla fine Mr. Wynne disse: signore, voi andate a visitare tutte le mattine prima di colazione la vecchia Nancy Grant e le avete prescritto, signore, questa medicina che forse è la più costosa del conto di Cornbyrne. Ancora non avete scoperto quanto sia difficile per un uomo rispettare i propri principi? Avete ancora molto da imparare, Mr. Wynne, rispose Mr. Gibson, lasciando l'ambulatorio. Il capo, io non riesco mai a capirlo, disse Mr. Wing con tono assolutamente disperato. Di cosa ridi, Coxie? Sto pensando a quanto sei fortunato ad avere dei genitori che hanno instillato dei principi morali nel tuo giovane cuore. Andresti ad avvelenare tutti i poveri se tua madre non ti avesse detto che l'omicidio è un reato. Staresti pensando di fare quello che ti è stato chiesto e al processo citeresti le parole del vecchio Gibson. Vi prego, signor giudice, non erano in grado di pagarmi le visite, così ho seguito i principi del mio professione che mi sono stati insegnati da Mr. Gibson, il grande medico di Hollingford, e ho avvelenato i poveri. Non sopporto quei suoi modi beffardi. A me piacciono. Se non fosse per il divertimento del capo e il tamarindo e qualche altra cosa che so io, me ne scapperei in India. Odio le stanze soffocanti, i malati, l'odore delle medicine e la puzza delle pillole sulle mani. Bleh! Capitolo 5. Un amore adolescenziale. Un giorno, per una ragione o per l'altra, Mr. Gibson tornò a casa inaspettatamente. Stava attraversando l'ingresso dopo essere entrato dalla porta del giardino. Il giardino comunicava con la stalla, dove egli aveva lasciato il cavallo. Quando alla porta della cucina si aprì e la ragazza che svolgeva le mansioni più umili della casa comparve in fretta nell'atrio tenendo in mano un biglietto e fece per recarsi a portarlo di sopra. Ma vedendo il padrone sobbalzò e girò sui tacchi come per nascondersi in cucina. Se non avesse fatto questo movimento, consapevole della propria colpa, Mr. Gibson, che era tutto fuorché sospettoso, non si sarebbe nemmeno accorto di lei. A quel punto, invece, scattò, aprì la porta della cucina e chiamò Betia! Così aspramente che lei non poteva evitare di farsi avanti. Dammi quel biglietto, ordinò. Lei esitò un poco. Per Miss Molly, balbettò. Dallo a me, ripeté lui, più brusco di prima. La ragazza sembrava sul punto di piangere, ma tenne stretto il biglietto dietro la schiena. Lui ha detto che dovevo consegnarlo solo a lei e io ho promesso solennemente di farlo. Cuoca, andate a prendere Miss Molly, ditele di venire subito qui. Egli puntò gli occhi addosso a Betia. Non era il caso di tentare di scappare. Ella avrebbe potuto gettarlo nel fuoco, ma non aveva abbastanza presenza di spirito. Rimase dunque immobile e solo i suoi occhi si spostavano di qua e di là pur di non incontrare lo sguardo fisso del padrone. Molly, mia cara! Papà, non sapevo che fossi a casa, disse l'innocente perplessa. Betia, mantieni la tua parola. Ecco, Miss Molly, dalle il messaggio. Davvero, signorina, non ho potuto evitarlo. Molly prese il biglietto, ma prima che potesse aprirlo, il padre disse. Ecco qua, mia cara, non c'è biglietto che tu lo legga. Dallo a me. Betia, di a quelli che te l'hanno affidato che tutte le lettere indirizzate a Miss Molly devono passare dalle mie mani. Adesso vai, Occhetta, torna da dove sei venuta. Papà, voglio che tu mi dica chi è che mi scrive. Vedremo, una cosa alla volta. La ragazza si allontanò un po' riluttante, con curiosità insoddisfatta, e salì da Miss Eyre che, anche se non era più la sua istitutrice, veniva ogni giorno a farle compagnia. L'uomo si diresse verso il salotto deserto, chiuse la porta, spezzò il sigillo del biglietto e iniziò a leggerlo. Si trattava di un'ardente lettera d'amore da parte di Mr. Cox, il quale si professava incapace di continuare a vederla giorno dopo giorno senza parlare della passione che gli aveva ispirato. Una passione eterna, la definiva. Leggendo queste parole, Mr. Gibson ridacchiò. Lei non avrebbe voluto regalargli un'occhiata gentile? Non avrebbe voluto pensare a colui per cui lei era l'unico pensiero? E così via, con una mescolanza molto appropriata di veementi complimenti rivolti alla sua bellezza. Lei era luminosa, non pallida, i suoi occhi erano stelle polari, le sue fossette i segni del dito di Cupido, eccetera. Mr. Gibson finì di leggere e iniziò a ripensarci in solitudine. Chi l'avrebbe detto che il ragazzo fosse così poetico? Beh, di certo c'è uno Shakespeare nella biblioteca dell'ambulatorio. Provvederò a rimuoverlo e a sostituirlo con un dizionario del dottor Johnson. Il solo conforto è la perfetta innocenza della ragazza, ignoranza oserei dire, perché è facile vedere che si tratta della prima confessione d'amore, come la definisce lui. È un terribile cruccio iniziare con gli innamoramenti così presto. Insomma, ha solo 17 anni, anzi li compie a luglio, non avrà 17 anni per altre 6 settimane. 16 e tre quarti. Beh, praticamente una bambina. Certo che sì, la povera Jenny non aveva neppure la sua età. E quanto l'amavo. Il nome della signora Gibson era Mary. Perciò lui si stava evidentemente riferendo a qualcun altro. I suoi pensieri risalirono ai giorni del passato, sebbene tenesse ancora in mano il biglietto spiegato. Poco a poco i suoi occhi vi ricaddero e la sua mente ritornò al presente. Non sarò duro con lui, gli darò un suggerimento, è abbastanza acuto da coglierlo. Povero ragazzo, se lo mandassi via, cosa che sarebbe la soluzione più saggia, so per certo che non avrebbe una casa dove andare. Dopo ancora qualche ripensamento nella medesima natura, Mr. Gibson andò a sedersi allo scrittoio e vergò la seguente ricetta. Mastro Cox. Quel mastro lo toccherà sul vivo, si disse Mr. Gibson scrivendo la parola. R. Verecundie i fidelitatis domestiche, i reticentiae gr. Capiat anc dosim tardie in acqua pura. Gibson. Mr. Gibson sorrise un po' tristamente rileggendo le proprie parole. Povera Jenny, disse ad alta voce. Poi scelse una busta. Vi inserì la fervida lettera d'amore e la prescrizione. La sigillò con il suo anello, con l'incisione RG in carattere antico inglese, e poi si soffermò sull'indirizzo. Non gli piacerà vedere scritto Mastro Cox all'esterno. Non c'è bisogno di infliggergli una vergogna non necessaria. Così sulla busta comparve la dicitura Egregio Edward Cox. Dopodiché Mr. Gibson si accinse alle faccende che lo avevano riportato a casa così opportunamente e inaspettatamente e poi tornò alle stalle attraverso il giardino. Proprio mentre stava risalendo a cavallo, disse allo stalliere: Oh, tra parentesi, c'è una lettera per Mr. Cox. Non fategliela recapitare tramite le donne, portatela voi alla porta dell'ambulatorio e subito. Il lieve sorriso sul suo volto mentre cavalcava oltre i cancelli svanì non appena si ritrovò nella solitudine della strada. Rallentò il passo e cominciò a riflettere. Era molto disagevole, pensò, avere una figlia orfana di madre che stava diventando una donna nella stessa casa in cui vivevano due giovanotti, anche se li incontrava solo durante i pasti. E la sola interrelazione reciproca consisteva nel pronunciare parole come «Posso servirvi le patate?» o come Mr. Wynne insisteva a dire «Posso aiutarvi con le patate?» un'espressione che dava ogni giorno più fastidio alle orecchie di Mr. Gibson. Tuttavia, Mr. Cox, il colpevole della faccenda appena verificatasi, sarebbe dovuto rimanere in casa sua per altri 3 anni in qualità di allievo. Sarebbe stato decisamente l'ultimo della stirpe. Però c'erano da superare altri 3 anni e se questo suo stupido e passionale amore adolescenziale fosse resistito, cosa bisognava fare? Prima o poi Molly se ne sarebbe resa conto. Le contingenze di quell'affare erano così sgradevoli da prendere in considerazione che Mr. Gibson decise di cancellare l'argomento dai propri pensieri per mezzo di una brava faticata fisica. Fece partire il cavallo al galoppo e scoprì che una corsa perdifiato per la strada, pavimentata da pietre tondeggianti che erano state dislocate dall'usura di centinaia d'anni, era il miglior ristoro per lo spirito se non per le ossa. Quel pomeriggio l'uomo fece un giro lungo e tornò a casa immaginando che il peggio fosse passato e che Mr. Cox avesse colto il suggerimento indicato nella ricetta. Tutto ciò di cui ci sarebbe stato bisogno era trovare un posto di lavoro sicuro per la sfortunata Betia, che aveva dimostrato una così ardimentosa attitudine all'intrigo. Ma Mr. Gibson aveva fatto i conti senza l'oste. Era abitudine dei giovani unirsi alla famiglia per il tè in sala da pranzo, trangugiare due tazze, ruminare il loro pane e poi sparire. Quella sera Mr. Gibson scrutò furtivamente le loro espressioni da sotto le sue lunghe ciglia, mentre tentava controvoglia di mantenere un atteggiamento rilassato e una conversazione vivace su argomenti di carattere generale. Vide che Mr. Winnie era sul punto di scoppiare a ridere, che la faccia e i capelli rossi di Mr. Cox erano più rossi e fulminanti che mai, mentre il suo intero aspetto e i suoi modi tradivano rabbia e indignazione. Vorrà una spiegazione, pensò Mr. Gibson preparandosi alla battaglia. Non seguì Miss Molly e Miss Eyre in salotto come faceva di solito. Rimase dov'era, fingendo di leggere il giornale, mentre Betty, con il viso gonfio per il pianto, un'espressione offesa e afflitta, sparecchiava. Neanche 5 minuti dopo che la tavola fu sbarazzata, ecco l'atteso bussare alla porta. Posso parlarvi, signore? Chiese l'invisibile Mr. Cox dall'altra parte. Certo, entrate, Mr. Cox. Desideravo proprio parlarvi a proposito di quella fattura da Columbine. Prego, accomodatevi. Non è questo, signore, che volevo, che volevo, che vorrei. No, grazie, preferirei stare in piedi. Al che rimase lì impettito in tutta la sua dignità ferita. Riguarda quella lettera, signore, quella lettera e quella offensiva prescrizione, signore. Offensiva prescrizione. Sono sorpreso che un simile aggettivo sia usato per descrivere una mia ricetta. Anche se senza dubbio i pazienti talvolta si offendono quando viene loro rivelata la natura delle loro malattie. E oserei dire, si indignano per le medicine che i loro casi richiedono. Io non vi ho richiesto di prescrivermela. Oh, ma siete voi il mastro Cox che ha inviato il biglietto tramite Betia. Lasciate che vi riveli che questo le è costato il lavoro e che la lettera era proprio una sciocchezza. Non è la condotta di un gentiluomo, signore, intercettare, aprire, leggere parole che non erano indirizzate a voi, signore. No, ribatté Mr. Gibson con un leggero luccichio negli occhi e un'increspatura delle labbra, che non passarono inosservato allo sguardo del furioso Mr. Cox. Credo di essere stato un tempo considerato tollerabilmente avvenente e direi che a 20 anni ero un bell'imbusto, ma penso che neanche allora avrei potuto immaginare che quei graziosi complimenti fossero rivolti a me. Non è la condotta di un gentiluomo, signore, ripeté Mr. Cox balbettando. Stava per aggiungere qualcos'altro quando Mr. Gibson lo interruppe. E lasciate che vi dica, giovanotto, disse con improvvisa severità, che quanto avete fatto è giustificabile solo in considerazione della vostra età e dell'ignoranza assoluta con la quale gestite le regole dell'onore familiare. Vi ho accolto nella mia casa come un membro della famiglia e voi inducete una delle mie domestiche, la corrompete, non ho dubbi, con una bustarella. Invero, signore, non le ho mai dato un solo penny. E allora avreste dovuto. Dovreste sempre pagare coloro che fanno il lavoro sporco per voi. Or ora, signore, voi l'avete definita corruzione, brontolò Mr. Cox. Mr. Gibson non badò al suo commento, ma continuò. Avete indotto una delle mie domestiche a mettere a rischio il suo posto, senza offrirle la minima ricompensa, pregandola di trasmettere clandestinamente a mia figlia, una bambina. Miss Gibson, signore, ha quasi 17 anni. Ve l'ho sentito dire l'altro giorno, sottolineò Mr. Cox, che ne aveva 20. Di nuovo, Mr. Gibson lo ignorò.